nel gennaio dell'86 Lucio fece uscire quest'album Bugie, appunto c'era questa canzone, erano 8 brani, ma c'era Se io fossi un angelo, che Lucio l'ha sempre cantata dall'86 fino a Montreux. Poi vabbè, c'era, ovviamente uscì nell'ottobre sempre di quell'anno, uscì Caruso, questo live dove l'inedito, che è obbligato a farlo, doveva fare una canzone per un live, meno male che venne fuori appunto Caruso, che è stata veramente una delle canzoni tra le due o tre più conosciute italiane nel mondo, cantate da tantissimi, interpretate da tantissimi cantanti famosissimi. E infatti il programma su Lucio Dalla per quest'anno si chiama E ricomincia il canto, sì, non a caso dal famosissimo verso di Caruso. Allora, questo programma comprende un documentario che andrà in onda su Rai 2 il 3 di marzo, che si intitola Ci vediamo da Lucio, sì, ed è stato girato proprio a casa di Lucio, sì. E poi c'è un libro sul gioco del calcio, sì, perché bellissimo, sì, tu si è inventato una storia Lucio, adesso non so cosa dire, ma nella sua testa questo dio del calcio era Maradona. Ok, quindi una storia fantastica. Sì, perché parla degli dei nell'Olimpo che hanno inventato il calcio, e c'era questo giovane, ma dovete leggerlo, poi lo scoprirete, perché lì Lucio proprio si è sbizzarrito nella sua fantasia, è dato un'idea del calcio nuova proprio, che all'epoca non esisteva proprio il calcio, in questo immaginario nell'Olimpo con gli dei, all'epoca in cui, sì, è stato ambientato, sì, il libro. E poi il 4 marzo all'Arena del Sole, sì, ci saranno tante cose, premiazioni, vuoi raccontare qualcosa? Sì. Sì, perché adesso tu dici che parlo del 4 marzo, non è che mi viene un magone, per carità, però mi vengono in mente i compleanni festeggiati con Lucio, perché Lucio li festeggiava ogni scadenza, quindi c'erano i suoi 30 anni, i suoi 40 decennali. Anni, sì, sì, sì, perché il resto era praticamente sempre via, quindi anche quando c'erano le tournée lui non gli piaceva tanto lì, invece quando c'erano questi scadenze, sì, dice, oh, sono invecchiato solo di un anno, perché così passati, poi lui lo considerava un anno solo. No, quella sarà una serata bella dove si esibiranno questi giovani qui, poi ci saranno questi del liceo Lucio Dalla, che sono proprio curioso, visto che faremo le prove poi a casa, di vedere sul palco come andranno, perché poi sono studenti, certo, quindi confrontarsi con la gente che li guarda, sono curioso. Ma infatti la cosa bella è che il nome di Lucio Dalla non richiama solo un artista, ma enorme ovviamente, ma è tuttora un motore molto importante per la vita culturale di Bologna. Sì, sì, sì. Per la rete che ha saputo creare, per tutto il fermento che ha saputo originare e che continua a ispirare. Perché Lucio, quando mi raccontava che lui nasce dal jazz, ovviamente, e diceva che Bologna era la capitale, almeno in Italia, del jazz, no? E da sempre è stata una città legata alla musica. Lui mi ha detto: sono stato veramente fortunato a nascere qui. Oppure in un'altra città poteva essere Napoli, che lui poi considerava Bologna la sua mamma e Napoli la sua amante. E le Tremiti che ruolo avevano in questa vita sentimentale? Ma guardi, adesso posso dire che la prima volta che Lucio andò alle Tremiti, ci andò con la mia mamma, perché mia mamma è sempre stata con Lucio, ed erano partiti da Manfredonia, e a un certo punto mia mamma, appena arrivata alle Tremiti, si è girato, Lucio è rimasto in mutande e si è tuffato, e ha sempre raccontato Lucio che appena si immerse nell'acqua delle Tremiti se ne innamorò.